4. Ruote e dintorni di Roberto Rasia. Amici dei motori, buonasera, bentornati al programma che si occupa di auto e moto qui su Radio 24 da ormai 9 anni insieme agli amici di Quattro Ruote e tutte le loro riviste collegate. www.radio24.it nella sezione programmi ci siamo anche noi e poi quattroruote@radio24.it. Puntata davvero ricchissima, oggi il cuore è determinato dalla prova della Citroen C3, siamo andati l'altro ieri giù a Grosseto e in Bassa Toscana a provarla, la nuova C3. Auto importantissima per il marchio francese visto che l'Italia è il secondo mercato in assoluto. E poi parleremo di metano con la Volkswagen Passat TSI Ecofuel insieme a Roberto Boni di Quattro Ruote e al presidente di Feder Metano e poi ancora 2 o 3 notizie diverse. Ma iniziamo subito con Carlo Bellati dalla redazione del Mensile. Buonasera Carlo e bentornato. Buonasera a tutti, buonasera Roberto. Quindi secondo mercato Carlo, perché ho ricevuto conferma anche tu del numero strabiliante delle Citroen C3 vendute in questi ultimi 6 anni, cioè 400.000 sul mercato italiano, sono tantissime. Sì, un numero impressionante, bisogna dire numeri da segmento B, quindi numeri da segmento che copre oramai quasi il 70% del mercato, automobili versatili, automobili che sono cresciute anche tanto negli ultimi anni in termini di qualità, di affidabilità, di sicurezza, e C3 indubbiamente è stata una protagonista, nata nel 2002, una macchina che ha avuto veramente un grande successo e ancora oggi pensa che la C3, chiamiamola vecchia, vende qualche cosa come 6.000 auto al mese, quindi incredibile, un'automobile in promozione, ma sicuramente a un prezzo molto interessante e molto, molto gettonata. L'amministratore delegato Imparato di Citroen Italia, che sentiremo tra poco, si è dichiarato stupefatto egli stesso, pensate, più di 6.000 contratti chiusi nel mese di settembre nonostante sia stata annunciata la nuova C3. Di solito capita che nessuno compra più la vecchia, ma questo è un fenomeno di cui abbiamo parlato con il tuo collega Viola sabato scorso. Le case tengono fuori i modelli o rimettono in mercato i modelli vecchi, chiamiamoli così, in questo caso si chiamerà C3 Classic, per approfittare di chi vuole un po' meno dotazioni, spendere un po' meno e portarsi a casa un'auto che comunque va sempre molto bene. Invece la nuova C3, vorrei sapere che impressione ti ha fatto. Ti dico la cosa che ha colpito di più me, non è tanto la linea esterna, il design, che pure è assolutamente contemporanea e moderna e può piacere o no, ma nel mio caso grandissimo applauso ai progettisti Citroen per gli interni, cioè mi sono sentito a bordo di un'auto decisamente più grande. Ti parlo di comfort, di sicurezza, di percezione anche degli interni e questo tetto panoramico che potresti descrivere agli ascoltatori. Beh, indubbiamente il salto di qualità maggiore è stato nella parte interna della vettura. A quanto pare oltre il 60-70% del budget che era a disposizione dei tecnici è stato, e degli stilisti, è stato proprio indirizzato verso una qualità degli interni che rappresenta un salto epocale rispetto alla C3 precedente. Per chi se la ricorda, il gruppo strumenti, tanto per dirne uno, della C3 precedente, avevamo criticato abbastanza su Quattro Ruote perché era veramente sparagnino, lo definirei, molto economico, poco leggibile, poco chiaro. C3 ha un signor gruppo degli strumenti davanti al posto di guida che è veramente chiaro, veramente completo e degno veramente di un'automobile di classe superiore, ma anche tutto quello che riguarda la finitura interna, le parti in plastica, le parti in metallo che guarniscono il volante, i pannelli delle portiere, i sedili sono migliorati moltissimo, è un'automobile che ha fatto veramente un salto di qualità. E poi c'è questo oggetto che si chiama Zenith, un tetto alto 1,50 m e largo 1,40 m, quindi per una superficie totale che è di oltre 2 metri quadrati e che di fatto genera la sensazione di guidare una cabriolet, perché quando è aperto non c'è praticamente più nulla sopra la testa e c'è questo specchietto retrovisore che galleggia appeso sull'azzurro del cielo. La fantasia. Guardatevi le foto anche su quattroruote.it o i video, è davvero impressionante. Adesso invece ascoltiamo la voce di Jean-Philippe Imparato, l'amministratore delegato di Citroen Italia, che ci parla di mercato e dell'importanza di questa vettura per la casa francese. L'Italia Citroën per la brand worldwide è il secondo mercato in assoluto. Su questo mercato in più il mix del segmento delle city cars finalmente è di più di 63%. Comunque, avendo fatto con la C3 Classic, che conoscete tutti quanti, 400.000 vetture dal 2003, È evidente che per noi questo lancio è assolutamente strategico. Parliamo di obiettivi. Lei ha lanciato 50.000, un numero importante riguarda da gennaio a dicembre per l'immatricolato 2010. Dove troverete questi 50.000 automobilisti disposti a comprare la nuova C3, al di là dei contenuti, ma in un momento di mercato in cui tutti si chiedono che cosa succederà l'anno prossimo? Allora, prima di tutto, la prima cosa che devo fare è lanciare questa vettura a un prezzo che sia umano, direi, con il livello giusto di contenuto creative technology che sviluppiamo, in particolare il parabrezza Zenith. Secondo, andiamo sui 400.000 persone che hanno a un momento acquistato questa C3 Classic, e anche sul campo della concorrenza. È evidente che io sto giocando con tutti i miei colleghi della concorrenza. La nostra spinta si farà sul mercato con i concessionari e con un livello di servizio che voglio sempre più alto, perché questo è il futuro. Noi siamo convinti che in particolar modo quest'ultimo sarà il campo di battaglia del domani, perché diamo per scontato che la vostra auto sia una buona auto, ma anche quella dei vostri competitor siano belle auto. Invece sulla qualità del servizio, non so altrove, ma in Italia spesso si trovano dei gap. Allora, e questo perché... È d'accordo? Assolutamente, però penso che non è in Italia, è un po' dappertutto, Allora abbiamo sviluppato noi, al di là del cambiamento dell'immagine di marca che facciamo e che faremo in tutte le concessionarie, alcuni standard. Esempio, nessuno aspetta più di 3 minuti nel showroom Citroën. Secondo, 100% dei clienti hanno una proposta di prova di una vettura, eccetera, eccetera. Delle cose basiche. Allora, non si farà dappertutto, lo sappiamo tutti quanti, perché è manageriale come atteggiamento, però è una cosa che io non mi fermeremo mai di spingere, mai. Lei sa che fra le primissime ragioni e le primissime cause di scelta di un'autovettura sta lo stile e il prezzo. Non commentiamo lo stile perché è molto personale, anche a seconda di come uno lo vede, lo percepisce. Nel prezzo io trovo un pregio e un difetto. Il pregio è che da 12.000 a 18.000 euro c'è un range non troppo elevato, quindi siete riusciti a contenere tutte le versioni in poco più di 6.000 euro. Però 12.000 non è un prezzo bassissimo. Allora ci dice cosa succederà al lancio? Ci sarà un costo iniziale promozionale e poi che cosa prevedete? Allora, ci sarà evidentemente un prezzo di lancio che integrerà evidentemente tutti gli incentivi alla trasmissione conosciuti oggi e immaginati per domani, direi. Secondo, alla fine faremo l'ultimo giorno prima del lancio un punto per sapere dov'è la concorrenza. E l'ambizione mia non è di essere fuori, è di essere dentro, non sotto, non sopra, dentro. Ci saranno problemi di approvvigionamento dell'auto? Voi che numeri avete dalla Francia per l'Italia in termini di produzione? Allora, abbiamo un programma preventivo di 40-50 mila vetture. Facciamo il lancio lo stesso giorno dei francesi, siamo due paesi nel mondo da lanciare la C3 lo stesso giorno. È evidentemente che a partire dal 27 di novembre, se vediamo che il trend di contratti è al livello aspettato, l'impegno della direzione generale di Citroën Worldwide è di dare ai clienti francesi e italiani il livello giusto di macchine, nel senso che non voglio fare aspettare un ragazzo che mi sta comprando questa C3 nuova 6 mesi per avere un'auto. Questo è l'impegno che ha preso Frédéric Bonzet, il nostro direttore generale, 2 giorni fa con i concessionari. C3 Classic insegna. Bene, si ricorda all'inizio il grande boom di vendite che ebbe, no? Che creò anche qualche disagio, ovviamente. Ve ne aspettavate molte meno? Assolutamente, sempre impariamo qualcosa di un nuovo lancio. La situazione ha cambiato, non è lo stesso momento, e manteremo anche la C3 Classic. Perché è chiaro che con un gioiellino che mi fa 6.000 contratti sul mese di settembre 2009, 7 anni dopo del lancio, l'intenzione mia non è di fermarmi, e la manteremo fino a quando considereremo che la nuova ha preso il suo posto. Allora, questa era la voce di Jean-Philippe Imparatore, amministratore delegato di Citroën Italia. Quattro ruote e dintorni. Parlando dunque di Citroën C3, abbiamo detto del grande comfort interno, della grande progettazione, questo vetro Zenith, il parabrezza lungo 1,30 m, pensate, rispetto ai soliti 90-100 cm, 1,30 m, e sono gli argomenti chiave anche della pubblicità che vedrete in onda a breve, verrà lanciata il 27 novembre nei concessionari l'auto. Parliamo invece di come va, abbiamo un'impressione ovviamente, perché non abbiamo ancora i dati strumentali, la mia impressione è che anche dinamicamente sia un'ottima auto, preferisco i motori benzina a quelli diesel, nonostante avranno decisamente più successo in Italia. Carlo Bellati, che cosa ne pensa di come va questa vettura? Ma sul diesel, tanto per cominciare, sai che c'è un po' di rientro in questo momento, anche sul segmento B. Oramai si parla di un 50-50 nell'immatricolato di questo segmento, perché alla fine sono automobili che non fanno moltissimi chilometri all'anno, per cui il diesel è da valutare in termini di costo e di convenienza se convenga o meno prenderlo, perché anche un buon benzina è sicuramente un motore con una buona soluzione. Tra i buoni benzina della C3 io segnalo il 1006 VTI da 120 cavalli, che è veramente un motore divertente, specialmente con la gommatura da 17 pollici dà corpo a un'automobile che, pur essendo tradizionalmente un'automobile comoda, diventa anche un'automobile molto piacevole da guidare, precisa, con poco rollio, un'impostazione in curva abbastanza decente da poter anche affrontare la guida sportiva, e tutto sommato non ha perso però quella caratteristica che era anche della C3 precedente, cioè quella di essere una macchina capace di smorzare molto le asperità stradali, e ahimè sappiamo che ne troviamo tante tra buche e sconnessioni, e quindi isolare molto bene acusticamente e dal punto di vista delle vibrazioni il guidatore e i passeggeri. Quindi un'auto comoda, però scegliendo le versioni un pochino sportive è anche un'auto molto divertente da guidare. Il diesel ha queste motorizzazioni da 90 e da 110 cavalli, che sono dei cavalli di battaglia per la Citroën, decisamente. Sono motori praticamente indistruttibili che consumano anche molto poco. E senza dimenticare, esatto, i consumi e le conseguenti emissioni. Pensate, il modello che consuma meno, che emette meno, arriva a 99 grammi di CO2 emessa ogni chilometro percorso. Sono veramente soglie che dimostrano quanto la tecnologia automobilistica in generale, globalmente parlando, abbia raggiunto veramente livelli eccellenti. Grazie a Carlo Bellati di Quattro Ruote, buona serata. Buonasera a tutti. Chiudiamo allora questa prova con la voce del responsabile della formazione tecnica di Citroën Italia, Roberto Paganini, ci presenta l'auto dal punto di vista delle prestazioni. Allora, cominciamo subito dalle motorizzazioni. Al lancio avremo 4 motori benzina, di cui un 1.400, un 1.600 con un sistema di alzata variabile delle valvole di aspirazione, quindi per garantire miglior riempimento del motore, quindi prestazioni ed emissioni di CO2. Per passare poi a 4 motori diesel, sul punto di vista diesel, quindi Common Rail HDI, Common Rail seconda generazione, sul sistema diesel PSA Citroën in particolare non ha assolutamente niente da invidiare ai concorrenti, perché siamo addirittura fornitori di motorizzazioni per i nostri concorrenti in Europa. Un piccolo aspetto per quanto riguarda i motori benzina: il sistema con alzata variabile non è presente ad esempio sulla C3 Classic attualmente in vendita. Un grande sforzo è stato fatto anche dal punto di vista della riduzione delle emissioni, oggi parola chiave per tutti i costruttori. Ci fa capire, Roberto, che cosa ha fatto esattamente Citroën nei suoi laboratori francesi? Allora, logicamente si è andato a lavorare sui motorizzazioni, ma non solo su quelle. Un esempio, l'emissione CO2 è direttamente proporzionale al consumo di carburante. Quindi abbiamo lavorato prima di tutto sull'aspetto dell'aerodinamica, sul CX, il coefficiente di penetrazione. C3 ha il miglior coefficiente di penetrazione della sua categoria. Stesso discorso per quanto riguarda i pesi. Se riesce a fare una macchina più leggera, ci vuole meno energia per spostarla. Ed ecco che rapporto fra CX e peso vettura, siamo riusciti ad avere veramente un range, diciamo così, di basse emissioni, fino ad arrivare a 99 grammi per chilometro di emissioni di CO2. Questo è solo l'inizio. Durante il 2010 ci saranno delle grosse novità. Arriverà la stop and start. Mi viene così da dire, da tecnico, che Citroën è stata la prima 5 anni fa a lanciare una stop and start sulla C3 Classic. forse non è stata così ben apprezzata al mercato. Oggi tutti parlano di stop and start, noi siamo stati i primi, possiamo dirlo. Ne approfittiamo per i pochi distratti e definiamo lo stop and start. Allora, lo stop and start che cos'è? È un sistema che automaticamente, quando il cliente, il conducente, si ferma a uno stop, a un semaforo rosso, va a spegnere la vettura. La grossa novità è che l'avviamento non viene fatto col classico motore in avviamento, ma viene fatto con un sistema che si chiama moto alternateur, che cos'è in francese? È l'alternatore che si tramuta in motore elettrico e avvia la macchina senza rumore classico del motore in avviamento ad un regime già più alto della soglia normale del motore in avviamento. Questo fa sì che emettiamo veramente minor quantità di CO2. E veniamo al pezzo forte. Nella campagna pubblicitaria che tutti gli italiani vedranno in Italia, ma poi anche in tutto il mondo, si punterà molto sul parabrezza Zenith, definito così un parabrezza che sul mercato non c'era. Allora, parabrezza Zenith, parabrezza di grosse dimensioni. Diciamo subito il motivo di questa novità. Parabrezza Zenith innanzitutto dà una sicurezza attiva, perché nell'uso cittadino gli angoli ciechi sono un pericolo. Grazie a questo parabrezza di grosse dimensioni, posso dare una cifra per tutte, dalla base alla fine è 1,30 m di lunghezza. Rispetto a una media attuale invece? Inferiore al metro, metro qualcosa, quindi veramente di dimensioni notevoli. Quindi dicevo, sicurezza attiva per quanto riguarda l'eventuale angoli ciechi nella guida in città. E poi non dimentichiamoci il piacere di guida, non bisogna dimenticarlo. Grazie a questo parabrezza, quando guidi in strade extraurbane, magari come oggi siamo qua a fare delle prove in Toscana, ti godi veramente il panorama. Quindi mi piace dire appunto vivere l'ambiente che ti circonda. La macchina non deve essere un carro armato, ci deve essere comunque un piacere guidarla. E poi una piccola chicca nel cruscotto, un'indicazione della marcia da inserire. Ci spiega come funziona e che indicazione dà. Allora, nelle vetture con normativa Euro 5, con cambio manuale, c'è una novità assoluta per il segmento. Vediamolo insieme. C'è un indicatore, un numerino, che va a indicare il cliente la marcia migliore da inserire per diminuire i consumi e di conseguenza il CO2. Due parole per dire come funziona. È il calcolatore motore che integra questa funzione, va a prendere diversi parametri, tra l'altro la velocità veicolo, la pendenza a cui la macchina è sottoposta e la richiesta del conducente, quindi quanto il conducente sta accelerando. Con questi parametri deduce qual è la marcia migliore per emettere meno CO2 e quindi consumare meno, e lo va a indicare facendo lampeggiare sul cruscotto una cifra che corrisponde al numero di marce che il cliente deve inserire. Il sistema può addirittura far saltare le marce. In che senso? Il cliente sta viaggiando in terza, in quelle condizioni il sistema ritiene che è meglio viaggiare in quinta, va a lampeggiare direttamente la quinta, quindi consiglia, mi raccomando, è importante, consiglia, non obbliga il cliente a inserire la quinta marcia. Allora, chiusa la prova della Citroen C3, che proprio in questi giorni è stata lanciata, con Carlo Bellati, che è andato inizio settimana. Noi ci siamo recati a Grosseto ieri e l'altro ieri. Direi che adesso abbiamo bisogno di un bel salto di prestazioni, perlomeno. Si tratta sempre di una quattro ruote, ma si tratta di prestazioni davvero da pista. Parliamo di McLaren, lo facciamo alla grande con il direttore di quattro ruote, Mauro Tedeschini. Bentornato, direttore. Grazie, buonasera a voi. Ciao Mauro. Allora, la McLaren, possiamo raccontare anche agli ascoltatori l'aggiornamento? Erano un po' abituati a sentirla abbinata McLaren-Mercedes, sono cambiate da un po' le cose. Sì, esatto, nel senso che questo matrimonio, per quello che riguarda le auto di produzione, le Gran Turismo appunto, è finito, continua per la Formula 1, ma non va più avanti per quello che riguarda le macchine Gran Turismo, e la McLaren appunto ha ormai preparato un'automobile che sarà venduta a partire dalla seconda metà del 2010, con addirittura anche un motore proprio, perché è stato fatto in casa un V8 di 3008 di cilindrata e 600 cavalli di potenza, e quindi si preparano a sfidare finalmente la Ferrari in campo aperto, non soltanto per quello che riguarda appunto le monoposte sui circuiti, ma anche proprio per quello che riguarda le Gran Turismo a circa 150.000 euro di prezzo. Decisamente di alto livello dunque. Sarà più sport la parola chiave? Sarà più sport abbinato a comfort o puro senso di guida? Questa è sicuramente una macchina sportiva, due posti secchi, come dicevo prima, una macchina molto potente, però essendo una macchina che arriva nel 2010, la McLaren ha cercato di fare un'automobile che sia allo stesso tempo appunto potente, veloce e quant'altro, però anche sostenibile, quindi è la macchina che ha le migliori emissioni per cavallo, almeno da quello che sostiene la McLaren, che esiste sul mercato, compreso anche le piccolissime. Quindi è stato fatto un grandissimo lavoro, peraltro da uno staff che è guidato da un ingegnere che, pur avendo un nome americano, che si chiama Anthony Sheriff, in realtà ha lavorato per moltissimi anni alla Fiat, tanto per dare un nome, il padre dell'ultima Panda, e quindi ha dei grandissimi legami con l'Italia e conosce molto bene quindi anche il principale competitor, che è per l'appunto la Ferrari. Circa 150.000 euro, voi non l'avete ancora provata però? No, noi la macchina non l'abbiamo ancora provata perché, come dicevo, è in fase di ultimazione. Certo. Io sono stato a vederla a Woking, questa bellissima sede fatta da Sir Norman Foster a 30 km da Londra. La macchina, diciamo così, è in questo momento in preserie. La proveremo, io penso, nella prima metà del 2010. Quello che è interessante è che è una macchina della quale la McLaren voglia arrivare a fare 3-4 mila esemplari all'anno. Quindi stiamo parlando di un investimento molto importante. Tante, non più di serie limitate come erano appunto le macchine che venivano fatte finora con la Mercedes, le famose McLaren Mercedes SLR, che invece venivano fatte sostanzialmente in centinaia di unità, e quindi stiamo parlando di un, diciamo, uno step industriale molto ma molto importante. Perché è chiaramente un cambio di prospettiva questo. Davvero, anche come piano industriale non da poco, se pensate l'importanza di un primo modello così con il marchio McLaren, diciamo nuova generazione, non devono sbagliare, e quindi saremo molto curiosi nella prima metà del 2010 di sentire le vostre prime impressioni per poi toccarla con mano nella seconda metà dell'anno. Grazie davvero per ora e buona serata, Mauro Tedeschini. Grazie a voi, buona serata a tutti. Quattro ruote e dintorni. Dunque, l'avevo detto all'inizio, adesso tocca parlare del metano, un argomento importante. Lo facciamo in realtà a bordo della Volkswagen EcoFuel, la Passat, che è piaciuta molto anche a quattro ruote. Sentiremo tra poco Roberto Boni. Prima però, per inquadrare questo discorso, mi piaceva fare un aggiornamento, credo che sia giornalisticamente anche utile per tutti voi, sullo stato di salute del metano. C'è un'associazione che più di ogni altra se ne occupa, è la Federmetano. Vorrei salutare, e a lui do il buonasera, l'ingegner Dante Natali, che ne è presidente. Buonasera, presidente. Buonasera a lei e agli ascoltatori. Senta, presidente, 9 mesi fa lei a questi microfoni mi ha detto noi auspichiamo l'apertura di altri centri di rifornimento, di altre stazioni di rifornimento in giro per l'Italia, perché siamo troppo sotto addirittura al GPL. Allora ci fa capire a che punto siamo oggi, qual è lo stato di salute del metano? Ma lo stato di salute è buono, il numero degli impianti cresce e cresce ad una velocità mai registrata in passato nel nostro settore. Oggi siamo a oltre 700 impianti aperti, di cui 22 in autostrada, e anche questo credo sia una buona notizia per i nostri utenti. Gli utenti sono in crescita, abbiamo superato ovviamente le 500.000 unità, cioè 500.000 utenti autisti che hanno scelto il nostro carburante, il metano, quindi hanno scelto di risparmiare e di rispettare l'ambiente. Ovviamente i 700 impianti non sono sufficienti, restano ancora diverse fasce del territorio italiano che non sono sufficientemente servite. Resta il fatto che il sistema distributivo si sta rapidamente adeguando e speriamo in breve di riuscire a far sì che qualunque italiano da Trapani fino a Bolzano possa decidere liberamente se scegliere questo carburante o meno. Senta, presidente, un anno fa la situazione era un po' a macchia di leopardo dal punto di vista della distribuzione, cioè il nord-est era molto più in forma delle altre parti d'Italia. Adesso invece? Ma diciamo che alcune regioni hanno avuto un incremento della rete distributiva veramente eccezionale, parlo del Piemonte, della Lombardia, dell'Asse, della Campania, per cui si può parlare di un nord che ha già una buona rete distributiva. Il problema più grave, più evidente per noi è quello di alcune regioni meridionali, e poi quello del completamento della rete autostradale. Non a caso saremo a Oil Non Oil Sud per cercare appunto a Napoli fra pochi giorni, per cercare appunto di promuovere ulteriormente lo sviluppo della rete distributiva anche nelle regioni meridionali. Chiaramente. Prendiamo una grossa padella, che è il mercato dell'auto, ci mettiamo dentro il GPL, il metano, la benzina e il gasolio, mai come quest'anno il GPL e il metano hanno avuto buona fortuna, in parte gli incentivi, ma anche una voglia di rispettare da una parte l'ambiente e di ridurre soprattutto i consumi, vuol dire far bene al proprio portafoglio. Ci dà il vostro punto di vista su quello che accadrà in questo fine anno e nell'anno prossimo, ammesso che ci siano nuovamente gli incentivi? Ma noi se gli incentivi verranno riconfermati, e noi stiamo lavorando per questo, anzi veramente stiamo lavorando per cercare di far sì che gli incentivi vengano strutturati per un lasso di tempo più lungo di un anno, perché riteniamo che queste condizioni vadano mantenute al fine di garantire le migliori chance di sviluppo per la rete distributiva. Quindi noi auspichiamo che questi incentivi vengano mantenuti, nel caso in cui sicuramente il metano continuerà a fare ad ottenere buoni risultati così come li sta ottenendo oggi e quindi ad aumentare la propria quota di mercato. Attualmente a livello nazionale siamo poco più dell'1% dei carburanti per autotrazione. Però non dimentichiamo che in alcune regioni siamo oltre il 5% o oltre il 7% addirittura, per cui le potenzialità ci sono, speriamo che anche le condizioni al contorno ci aiutino a realizzare in tutte le regioni italiane questa situazione, queste performance. Auguriamocelo. Grazie Presidente di Federmetano, Ingegner Dante Natali. A presto e buona serata Presidente. Grazie a voi. E allora proseguiamo sul discorso metano, soprattutto sul discorso ambiente. Sapete che a ruota ci occupiamo di quelle case automobilistiche particolarmente attente all'ambiente e qui si stanno giocando veramente delle battaglie importanti globalmente parlando. Insomma, il primo che arriva a risolvere l'indipendenza dagli idrocarburi fa centro, ma nel frattempo GPL e metano appunto godono, come dicevamo col presidente di Federmetano, di un successo particolare. Allora vorrei intanto ripresentare perché già lo conoscete, Roberto Boni di Quattro Ruote. Caro Roberto, buonasera. Buonasera a te e a tutti gli ascoltatori. Avete fatto una prova poi anche particolare con l'attività dinamica in salita di una macchina che effettivamente raggiunge i vertici dell'eccellenza per quanto riguarda il rispetto dell'ambiente e la propulsione a metano. Sto parlando della Volkswagen Passat, la 1004 TSI EcoFuel. Questa è la denominazione totale di questa vettura. Vogliamo intanto presentarla agli ascoltatori, poi scenderemo nel dettaglio, Roberto. Sì, io direi che la Passat 1004 EcoFuel è la prima vettura a metano che è anche divertente da guidare, perché a differenza delle altre, diciamo, che si sono viste finora, che sono sempre ecologiche, consumano poco, hanno dei bassi costi di esercizio, questa ha anche una potenza e una coppia tali da poter essere usata in modo anche, diciamo, quasi sportivo. Tant'è che il suo 1004 ha una doppia sovralimentazione con turbocompressore e compressore volumetrico e infatti eroga addirittura 150 cavalli e ben 220 Nm di coppia, che in pratica le danno delle prestazioni da vettura di buon livello. Lo 0-100 in meno di 10 secondi e la velocità massima è di 210 km all'ora. Buono, quindi si smarca finalmente l'auto a metano da quel cliché che aveva fino a qualche tempo fa di auto insomma un po' lenta. Sì, costava poco il pieno, però era un'altra prestazione. Invece non è vero, oggi la tecnologia ha fatto passi da gigante. Per esempio Volkswagen con la Blue Motion Technologies, che è quell'insieme, quel pacchetto di tecnologie progettate in Germania, consente di ridurre l'impatto sull'ambiente, ridurre evidentemente i consumi, però questo senza che implichi la diminuzione delle prestazioni. E questo in realtà credo che sarà molto apprezzato globalmente parlando dagli ascoltatori, che non vogliono perdere prestazioni, non vogliono perdere velocità massime piuttosto che valori di ripresa o di accelerazione da fermo, nonostante abbiano una grande attenzione anche per l'ambiente. Tu hai provato questa vettura, che sensazioni ti ha dato effettivamente anche in salita, perché so che hai fatto uno studio particolare per la salita? Sì, abbiamo messo a confronto diversi modelli alimentati a metano appunto e la Passat è stata quella che si è comportata meglio. Come dicevo prima, le prestazioni di questo motore, di questa vettura, sono tali che non fanno in alcun modo rimpiangere non solo le vetture a benzina ma anche le vetture a gasolio, che hanno avuto molto successo negli ultimi anni, anche non solo per il risparmio di nei costi di esercizio, ma anche per la guidabilità offerta dalla sovralimentazione dal turbo, che dà coppia a tutti i regimi, quindi diciamo una risposta molto pronta all'acceleratore in ripresa, che è quello un po' che fa il piacere di guida oggi come oggi. Certamente necessario. Tutto questo si traduce anche in costi superiori all'acquisto oppure in linea con le concorrenti? Ma guarda, questa è una macchina che è un po' a sé stante. Tieni presente che tenendo conto degli incentivi così costa sostanzialmente come la versione a gasolio, attorno ai 30.000 euro. Tra l'altro la Passat TSI EcoFuel gode degli incentivi statali e quindi può ricevere a seconda dei casi fino a 5.000 euro di contributi, come succede alle più prestigiose, insomma, in questo senso, nel senso proprio delle emissioni e della possibilità di ricevere gli incentivi che tanto bene stanno facendo nel nostro paese, ma non solo, in realtà in tutta Europa, alle vendite di auto dopo un anno, ti ricordi, orribile, iniziato proprio nel 2008. Tra l'altro Volkswagen ha comunicato che nel 2010 i progetti porteranno a dotare della Blue Motion Technology ben 40 modelli. Questo vuol dire che è un po' una strada che seguono, Roberto, questa? Beh, ormai è una strada obbligata perché tutte le case sono costrette, diciamo, ad abbassare le emissioni di CO2 dei loro modelli e in pratica questo si traduce in ridurre i consumi, quindi tutti gli accorgimenti volti a ottenere questo risultato saranno adottati via via su tutti i modelli della gamma, non solo di Volkswagen ma anche altri costruttori. Uno per tutti il sistema di spegnimento e riavvio automatico dei motori ai semafori, lo start-stop o stop-start a seconda di che tanto noi ormai li vediamo su tutti i modelli nuovi che arrivano e che presto ci abitueremo a vedere un po' su tutte le macchine nuove. E infatti ne abbiamo parlato prima per la Citroen C3 dotata di questo sistema ed effettivamente ci hanno anche spiegato come funziona, riduce bene i consumi, quindi ben venga. Tutto ciò che riduce i consumi riduce anche per conseguenza logica le emissioni nell'aria, quindi pensate quanti piccioni si prendono con una fava sola. Devo dire che la tecnologia automobilistica industriale in questo senso, tutta la progettazione si sta muovendo molto bene, la sfida vera è quella del dopodomani, quindi se il domani è GPL metano finché ce n'è e passare più velocemente possibile poi all'ibrido ed evidentemente il dopodomani elettrico, idrogeno, insomma se ne parlava proprio in questi giorni, sono temi molto caldi, vedrete che con gli amici di Quattro Ruote ne parleremo sempre di più. Ha qualche difetto quest'auto, Roberto, e chiudiamo? Ma guarda, così a occhio direi di no. Il difetto semmai si può pensare che con il successo che sta avendo il metano e comunque anche se la rete si è sviluppata è sempre molto limitata, ci possono essere problemi di rifornimento. Tieni presente che i distributori normalmente non sono aperti in 24 ore, il self-service escluso, e anche il rifornimento prende un po' più di tempo rispetto a quello di benzina, quindi non è escluso che si possano creare delle code ai distributori. L'abbiamo sentito prima, 700 punti di rifornimento in Italia, però solo 22 in autostrada. Va bene, grazie di cuore allora a Roberto Boni di Quattro Ruote, a presto e buona serata. Grazie, un saluto a tutti. Salutato Roberto, vi saluto anch'io, vi saluta Filippo in regia, noi torniamo sabato prossimo, mi raccomando puntuali, godetevi domani la gara di Valentino Rossi e poi quella di domenica prossima in Malesia. Noi torneremo però sabato alle ore 21 per parlare anche di quello. Da Roberto Rasia un grazie per averci scelto ancora una volta e soprattutto buona guida!